It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 27 dicembre, bentornati di nuovo a tutti e a tutti. Se siete nuovi, rieccovi, benvenuti su Liberi Dentro Eduradio TV. Noi siamo Caterina Bombarda, che sono io, Antonella Cortese, alla conduzione di questo programma che è Liberi Dentro, che va in onda su tre emittenti, Teletricolore, Radio Città Fujiko e Lepida TV, un'ora al giorno, tutti i giorni, ed è un programma specializzato sul carcere. Ciao Antonella e bentornata anche a te. Ciao Caterina, ben ritrovata e ben ritrovati tutti voi. Allora, tu hai un compito oggi, lo raccontiamo di nuovo anche ai nostri ascoltatori. Tutto dicembre la nostra iniziativa Calendario dell'Avvento è un'iniziativa speciale per parlare del carcere, ma portare anche i messaggi dall'esterno all'interno e viceversa, e soprattutto gli auguri natalizi. E questa volta chi abbiamo, Antonella? Questa volta abbiamo un regalo della sezione maschile del carcere di Bollate, che grazie al nostro Paolo Aleotti siamo riusciti ad avere, e quindi ascoltiamoli. Ciao ragazzi, sono Ivan dal carcere di Bollate, vi auguro che possiate passare delle festività serene e speriamo che le passeremo anche noi e nient'altro, magari un giorno ci conosceremo. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, qui siamo riuniti in redazione e il nostro desiderio è che possiate passare un Natale sereno, un Capodanno sereno, con delle buone aspettative, delle buone prospettive. Veramente di cuore, tanti cari auguri. Sono Mois e auguro a tutti buon Natale e buone feste. Sono Donato, auguro un buon Natale a tutti quanti. Ciao ragazzi, sono Sergio, vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti quanti. Ciao ciao. Auguri ragazzi e ragazze del carcere di Dozza, un sincero augurio di buon inizio d'anno e speriamo di uscire presto. Ciao da Tiziano. Ciao ragazzi, mi chiamo Edward, auguri a tutti i detenuti e detenute di carcere di Dozza. Grazie. Bologna. Ciao ragazzi, mi chiamo Fabio, tanti auguri a tutti. Solo una curiosità, leggete il nostro giornale, vero? Carte bollate, mi raccomando. Ed eccovi, dopo aver ascoltato gli auguri della sezione maschile del carcere di Bollate, che ringraziamo, siete stati davvero generosi e a voi, da noi, i nostri auguri. Ritorniamo sulle nostre notizie di oggi. Leggo Cartabia rinnova la carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, lo leggo dalla stampa firma di Francesca Mannocchi. Eh sì, perché è stata rinnovata per altri 4 anni la carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, che è un protocollo d'intesa firmato dal Ministero della Giustizia nella persona di Marta Cartabia, dall'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dall'Associazione Bambini Senza Sbarre ONLUS. Pensate che questa carta è la prima nel suo genere in Italia e in Europa e riconosce il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti e a sostenere anche il diritto alla genitorialità. È un protocollo che prevede che le autorità giudiziarie siano sensibilizzate e invitate a una serie di azioni a tutela dei diritti dei figli minorenni di persone detenute. Caterina, noi diamo tutto per scontato, come se genitorialità, figli e tutto il resto fosse scontato. Non sempre è così, ci vuole una carta in questo caso, ma ti chiedo, è una carta che ha avuto effetti positivi per adesso? Ce lo dicono forse i numeri, Antonella. Solo nel 2021, sono i dati calcolati fino al 30 novembre di quest'anno, sono stati più di 280.000 i colloqui tra detenuti e almeno un familiare minorenne. Non è un dato scontato, sembra forse poco rispetto alle persone detenute che sono più di 60.000 in Italia, ma in realtà è un dato che fa riflettere perché non sono sempre attrezzati i luoghi della detenzione per ospitare i minori in carcere, soprattutto se sono minori molto piccoli. E poi con questo accordo si intendono promuovere anche iniziative di custodia cautelare, di luoghi di detenzione, di spazi bambini nelle sale d'attesa, come dicevo prima, di colloquio, di visite in giorni compatibili anche con l'orario scolastico ed è prevista anche una raccolta dati e un monitoraggio sulla attuazione del protocollo. Inoltre, questa carta contiene una serie di misure a tutela dei diritti dei bambini costretti a vivere in una struttura detentiva con le madri. E questa è una realtà di cui tante volte abbiamo parlato su Liberi Dentro di Radio e TV, e dovete sapere che fino ad oggi sono 19 i bambini piccolissimi che vivono in detenzione a seguito di 17 madri detenute. Ma pensate che l'anno scorso, anzi alla fine del 2019, questi numeri erano più del doppio, quindi 44 le madri e 48 i minori presenti in istituti di pena. Quindi Caterina, questa è una carta nata sì per difendere il diritto alla genitorialità, ma mi viene di dire soprattutto il diritto dell'infanzia. È infatti ciò che ha detto anche la ministra della giustizia Marta Cartabia. Tutti i bambini, lei afferma, anche se con genitori detenuti, hanno diritto all'infanzia. Anche con questa carta lavoriamo perché i bambini innocenti per definizione non paghino le pene inflitte ai genitori. Contemporaneamente, ha affermato la Cartabia, lavoriamo perché si riduca il più possibile quella distanza dagli affetti provocata dalla detenzione. Lavoriamo per carceri che aiutino a dare una seconda occasione. Sì, perché ricordiamoci che i genitori restano sempre genitori e coltivare il legame con entrambi i genitori, anche quando uno dei due è detenuto, è fondamentale. Esatto, è ciò che deve avvenire anche secondo la Garante per l'infanzia, in condizioni e in modalità che non siano però traumatizzanti per i minori che frequentano i propri genitori detenuti in carcere. Per concludere, ecco, ciò che è alla base della carta è la consapevolezza del valore delle relazioni genitoriali e familiari durante e dopo la detenzione, dando supporto ai figli minorenni che vengono colpiti dalla situazione di detenzione del genitore benessere complessivo. Per questo la carta impegna il sistema penitenziario italiano a confrontarsi con la presenza dei bambini in carcere e anche col peso che la detenzione del proprio genitore comporta nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La carta italiana, per concludere, è diventata modello per la prima raccomandazione nei 47 paesi del Consiglio d'Europa nell'aprile 2018, quindi abbastanza recente, anticipando anche tra l'altro un percorso che altri paesi europei non stanno ancora affrontando, purtroppo. Una piccolissima pausa musicale, uno stacchetto, e ritorniamo con te, Antonella, tra poco, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once E rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Siamo con te, Antonella, il nostro notiziario sempre sul carcere. Cosa ci racconti oggi? Oggi andiamo a fare una passeggiata in Perù, perché ho letto una storia molto interessante su Internazionale che ha a che fare col momento contingente, la pandemia, ma anche con un paese così lontano. A settembre 2020, Isaías Mashikash, un peruviano di etnia Wayuu di 35 anni, aveva smesso di lavorare come autista di macchinari pesanti già da alcuni mesi. Riusciva a stento a mantenere le sue tre figlie e la moglie grazie anche all'aiuto di qualche vicino che gli donava da mangiare, gli dava un po' di soldi e anche grazie alla solidarietà di altri Wayuu. Poi la pandemia di Covid, soprattutto a causa della pandemia di Covid, era rimasto completamente senza alcuna entrata fissa. Non riusciva più a pagare le due stanze d'affitto a Huachipo, una piccola località vicino Lima in Perù. Così la famiglia si è attrezzata, si è spostata in un terreno vicino, ha costruito una baracca con materiali di fortuna e intanto diceva lo stesso Mashigash: la gente moriva di Covid e noi eravamo molto spaventati. La nostra situazione continuava a peggiorare, anche economica, finché poi non ha pensato di allevare dei polli e grazie a quelli si è comprato dei biglietti di ritorno per tutta la famiglia. E oggi la famiglia si è spostata, è tornata di nuovo nel villaggio natale, che è nella regione Amazonas, nel nord-est del paese. Quindi questa è una storia di resilienza, mi pare di capire, perché Isaías ha lasciato la città ed è ritornato sui suoi passi. Eh sì, è ritornato sui suoi passi come tante altre persone hanno dovuto fare a causa della pandemia. Pensa che tra marzo e dicembre 2020 quasi 250.000 peruviani hanno preso la stessa decisione e hanno lasciato la città per le zone rurali. L'hanno reso noto un'indagine del gruppo di analisi per lo sviluppo realizzato su incarico della Banca Interamericana di Sviluppo, e questa inchiesta ha registrato sia quante persone hanno compiuto questo, diciamo, cammino ritroso, quindi dalla città, dalle zone urbane alla campagna, ma ha anche cercato di individuare le rotte che hanno percorso, tra l'altro molto spesso a piedi, i dipartimenti che le hanno accolte, che cosa li ha spinte a partire, quali situazioni hanno dovuto affrontare, ovviamente ritornando nel luogo d'origine dal quale magari erano andati via molto tempo prima. Si tratta del primo processo di ritorno in massa verso le aree rurali della storia del Perù. Era successo il contrario. Durante il conflitto armato interno, quasi 600.000 persone avevano lasciato le campagne per trasferirsi in città. La crisi sanitaria poi ha spinto i peruviani invece a fare il percorso al contrario. Perché alla fine, Caterina, le città si sono rivelate ostili. Secondo l'antropologo Teofilo Altamirano, che è proprio esperto di migrazioni, questi flussi migratori verso le zone rurali dipendono da un cambiamento nell'immagine positiva che in passato aveva la città, che era considerato il luogo che offriva opportunità per migliorare la qualità della propria vita. Invece la situazione ha cominciato a cambiare all'inizio degli anni 2000, accelerata poi da tutti i problemi contingenti nell'ultimo decennio. E spesso le persone che arrivano nelle città peruviane oggi non hanno nessun accesso ai servizi di base, devono fare i conti con la carenza d'acqua, vivono nelle periferie, nelle zone difficilmente raggiungibili e mal collegate. E anche Isaías viveva a Lima da 6 anni quando è scoppiata la pandemia. Si era dato da fare, guadagnava, pensa, 1.400 soli al mese, che sono circa 300 euro, molto di più di quanto avrebbe potuto ottenere nella sua comunità originaria in Amazzonia. Ora nel suo paese ha cominciato da zero, però dice: non voglio più tornare indietro, perché lì sarei di nuovo senza niente, sarei veramente nessuno. Dall'inchiesta è emersa che l'età media di chi nel 2020 ha abbandonato le città del Perù a causa appunto della crisi sanitaria e delle restrizioni per limitare i contagi era di 30 anni. Quasi la metà erano donne, tra l'altro. E in generale la maggioranza viveva nei centri urbani, al massimo da 6 anni, quindi insomma il Perù è stato uno dei paesi più colpiti. Restiamo però in ambito latinoamericano e ascoltiamoci questa bella Agua de Beber, che è una canzone cantata da Tom Jobim dal vivo a Montreal, e dopo non perdetevi l'intervista a Fernanda Luce di Avo. Meu coração, mas o amor. beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Te batunda, bate lá da badaba, te batunda, bate lá da badaba, te batunda. Buongiorno a tutti. Dopo aver affrontato anche il discorso più personale riferito a Fernanda Abiuso, è il momento ora di parlare proprio delle persone dimittenti, quindi come funziona il rapporto anche insieme tra le persone dimittenti e i volontari all'interno di AVOC. Via con la pillola. Fernanda, ci sono delle attività che vengono svolte dai dimittenti all'interno dei percorsi di semiautonomia, per caso? Abbiamo coinvolto nel tempo le persone alla manutenzione dell'alloggio, per esempio. Alle volte occorreva dopo un po' un'imbiancatura, ecco, allora loro si sono offerti, noi ovviamente portiamo il materiale, loro si sono offerti delle cose semplici, non so, aggiustare un rubinetto, un lavandino, se sono in grado di farlo, dipende, no? Portiamo il materiale, stiamo lì con loro, vegliamo, diciamo che non succedano degli incidenti di nessun tipo. Pulizia, un po' di manutenzione, ci sono due alloggi che hanno un piccolo giardino, sono laggiù in via della Beverara, e sono in quelle case del comune, non so se avete presente, quelle, vabbè. Quindi hanno il cortiletto sul retro, diciamo, allora non so, manutenzione anche di quello spazio verde che altrimenti rischia di essere trascurato, no? Porto gli attrezzi, porto i miei attrezzi da giardinaggio e loro fanno questo lavoro qui, quindi a migliorare le loro condizioni. Se pensiamo a volontariato, dobbiamo contattare delle associazioni esterne o delle realtà esterne. Questo è anche successo. Ultimamente, per esempio, ho fatto colloquio con uno che mi ha detto che dobbiamo vedere se riusciamo ad accoglierlo, per esempio, che mi ha detto che sarebbe pronto per lui una posizione di volontariato presso le cucine popolari. Allora magari c'è questa collaborazione con realtà che sono all'esterno, che possono offrire qualcosa. Naturalmente l'obiettivo primario è trovare un lavoro. Trovare il lavoro, oltre che naturalmente alla dignità, ci serve per mantenersi, e quindi gli sforzi sono in questa direzione, quindi noi siamo molto, ovviamente molto contenti, anche quando loro non hanno disponibilità, diciamo, per piccole attività di manutenzione, se però stanno lavorando all'esterno, insomma. E lì ci sono le cose più svariate. E adesso è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo presto con la pillola. Dopo un breve stacco musicale, è il momento di continuare la nostra intervista insieme a Fernanda Biuso e adesso ricomincia la pillola. I percorsi di semiautonomia possono essere utili alle persone dimittenti per poter ambire ad un'eventuale professione in società una volta che la pena viene scontata definitivamente? Le storie, molto dipende dalla storia individuale, chiaramente, come si può, chi ha degli strumenti prima anche della detenzione e magari durante il periodo di detenzione ha fatto qualche corso di formazione, quindi ha qualche titolo, diciamo, o comunque ha imparato a fare qualche altro mestiere che magari non sapeva fare prima, naturalmente ha più chance poi di ricollocarsi. È che la transizione non è un periodo sufficientemente lungo. Come transizione, alloggio di transizione nei nostri appartamenti, il massimo sarebbe 2 anni, qualche volta non basta neanche 2 anni per magari regolarizzare la propria situazione sul territorio per chi non è regolare e per trovare un lavoro. Fuori c'è naturalmente lo stigma della persona che ha avuto una carcerazione che è tuttora molto forte e in tempi in cui tutti siamo un po' in difficoltà, questo è naturalmente peggiora. E qualcuno è andato all'estero, insomma, o dice beh vado all'estero così troverò, un po' perché forse pensa di trovare più facilmente, un po' perché cerca di evitare il fatto che venga poi scoperto che ha un precedente, insomma. I lavori a cui abbiamo visto accesso sono stati nel campo della ristorazione, pulizie, imprese di pulizia, manutenzione del verde, edilizia, questi sono stati più o meno le vie d'uscita. Sartoria per la donna, sapete che per le donne, o dopo la sartoria qualcuna ha cominciato a fare la badante, quindi ha avuto di volta in volta, insomma, se aveva delle buone referenze è stata favorita in questo percorso. Io ho ancora contatti con alcune di queste persone che nel tempo quindi so cosa è successo di loro. Direi che quando escono dall'appartamento è perché hanno, in quella fase lì, hanno un lavoro e riescono a pagarsi l'affitto o per una stanza o... Una volta ci furono 2 o 3 che si misero insieme e affittarono un appartamento, insomma, crearono questa coabitazione fra loro per cui ci fu reciproco aiuto. Poi nel tempo si è un po' trasformata ovviamente la relazione, però insomma c'è stato anche questo tentativo. L'ultima persona che abbiamo ospitato a fine pena ha subito trovato nel mondo del delivery, dopo 2 giorni era già lì è già lì che lavora a tempo pieno, insomma è successo 2 settimane fa, la settimana scorsa già aveva il posto ed era naturalmente contentissimo. Quindi adesso forse riusciamo meglio. Non è facile perché spesso non c'è una professionalità ben definita, c'è poca capacità economica e anche forse strutturale nella creazione di imprese autonome, devo dire, quindi c'è poi il rischio di piccoli lavori, di lavori in nero e questo naturalmente finché sono o seguiti dall'UEPE o in misure alternative non possono avere sbocco perché nessuno li prende, nessuno gli fa un contratto e anche alle volte i permessi orari non possono venire dati. Se loro chiedono dei permessi orari, se non l'hanno già nella loro misura, dei permessi orari per andare a fare un lavoro in nero non viene dato perché non c'è nessuna certificazione valida. Quindi alle volte ci sono anche degli inghippi burocratici. Anche per oggi la nostra pillola termina qui, ma noi ci rivediamo settimana prossima sempre in compagnia di Fernanda Biuso per parlare ancora di associazione AVOC e di persone dimittendi all'interno della stessa. Alla prossima! E rieccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV dopo la pausa musicale. Siamo ai saluti finali dove vi annunciamo la rubrica a seguire, sempre una mezz'ora ancora con noi. Abbiamo l'intervista a Isabella Matulli, che è volontaria dell'associazione AVOC per il carcere, ma è anche missionaria nel mondo, specialmente in Asia e in Africa. Ascoltiamola e come al solito scriveteci redazione a liberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, dalla nostra Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Botta, la nostra tirocinante, e ci rivediamo domani. Like Christmas, everywhere you go. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. It's glistening once again.